Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che come sempre ogni giovedì insomma è qui puntuale alle sue trasmissioni, sempre in fedele compagnia del caro amico. Sì, ciao. Buonasera Agostino. Ciao Maurizio. Come stai? Bene? Io bene, tu? Benissimo. Non c'è male. Quando siamo dentro qua facciamo musica, siamo sempre benissimo. Ok? Allora, buonasera, dicevo, da Blu Radio Veneto, con la voce di Agostino, con la voce di Maurizio, ma soprattutto con la voce di Stefano Ardenghi, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima i consueti dati tecnici di questa emittente, il nostro sito www.bluradioveneto.it, lì trovate tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la cronaca, le notizie, lo sport, insomma tutto quello che è notizia, insomma, tra virgolette, per quanto riguarda la nostra regione, ma non solo, c'è anche ci sono le recensioni sui vari artisti, su quello che capita anche nel mondo della musica e anche nel mondo, diciamo, al di fuori del Veneto. Poi ancora il nostro le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto oppure Blu Radio Veneto Rock Wave, ne abbiamo due a seconda di quello che volete vedere e sentire, leggere anche insomma dei nostri programmi curati dalla redazione e poi anche dal Rock Wave curato da Alberto Prisco. I nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms vi ricordo il 346 23 20 033. Questa è la fascia serale che va in onda tutte le sere dalle 21 alle 22:30 e come di consueto il giovedì con Agostino e con Maurizio c'è un live, c'è un qualcuno che ci viene a trovare, c'è qualcosa di sentire di nuovo o quasi, insomma in questo caso abbiamo un cantante che ci viene direttamente da Milano, si chiama Stefano Ardenghi, al quale diamo il nostro più cordialissimo benvenuto. Ciao Stefano. Ciao Agostino e un saluto a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. E non solo Stefano, c'è anche Michele, il suo pianista. Mister Piano. Ciao Agostino. Ciao a te. Allora, Stefano, benvenuto, ben ritrovato. Grazie. Dopo tanto tempo che ci stiamo sotto a queste interviste. Sì, alla fine abbiamo trovato il modo, sì, infatti. Ci siamo sentiti ancora qualche mese fa, insomma, per questo discorso. Beh, sì, è stato quasi un parto, si può dire. Allora, Maurizio. Sì, Stefano, suoni dall'età, hai cominciato a suonare e mi desiderarti nella musica dall'età di 14 anni. Si comincia sempre così, molto presto. Guarda, anche prima. Diciamo. Anche prima, perché Stefano mi diceva, microfono spenti, cari ascoltatori, che ha due fratelli più grandi, sì, di te, sì, quindi sì. Musicalmente c'è stata una spinta. Sì, c'è stato un input notevole da parte loro, perché comunque sia la musica è sempre stata un elemento fondamentale nella mia vita e sostituiva tante volte anche il gioco, quindi piuttosto di andare a giocare o comunque sia relazionarmi con altre situazioni, preferivo magari andarmi ad ascoltare il disco che ascoltava mio fratello e quindi già andare a vedere i crediti, chi suonava qui, chi suonava là, e ho cominciato, come dire, a fare una sorta di cultura mattoncino per mattoncino, tutto qui. Poi lentamente le cose si sono sviluppate, qui leggevo che poi hai cominciato a fare delle esperienze con le cover, cosiddette cover band, quelli ci sono sempre. È un passaggio obbligato, nel senso che comunque sia tu cresci con dei miti o comunque dei punti di riferimento che cerchi in qualche modo nei primi passi di emulare con le prime band, non lo so, nell'oratorio, cominci piano piano Raffinarti. Un taglio già con taglio jazz pop, non è mica tanto semplice arrivare subito al jazz pop, sei andato su dal punto di vista di qualità. Sì, diciamo che l'ho presa larga. L'hai presa larga, abbastanza, sì. Perché comunque sia... ti dicevo prima fuori onda che il primo disco straniero che era entrato in casa mia era Synchronicity. Non è proprio un disco da Synchronicity, da ragazzino, infatti. Però i tuoi fratelli non erano d'accordo. No, molto legati alla musica italiana, i cantautori, con tutto rispetto ai grandi maestri che ho assorbito e ho nelle mie vene, se si può dire. Però ascoltando questo disco da mio cugino è stata una folgorazione, poi tutta la discografia a ritroso, poi scoprire altri gruppi, Peter Gabriel, Genesis e via dicendo. E alla fine la discoteca comunque è stata costruita. In questo match ha vinto poi la musica straniera, con tutto rispetto per la musica italiana, che faccio anche quella anch'io. Quindi. Certo. Stefano, abbiamo giocato spessissimo sul nome del tuo CD, sì. Sul titolo insomma del tuo CD, ma io ti chiedo, perché era proprio una cosa tua personale, e il fatto di essere momentaneamente assente, questo è il titolo del disco di Stefano. Sì. È una scelta tua, cioè una cosa che sì, nasce da dentro di te, insomma. Sì, diciamo che non poteva essere scelta migliore, nel senso che mi piaceva trovare un titolo, innanzitutto, che non fosse il titolo di una canzone, quindi una delle parole che fossero contenute in uno dei brani. E poi diciamo che rappresentava, sotto diversi punti di vista, diversi concetti. Questo disco è nato nel 2006, e ha avuto una gestazione molto lunga per poi problemi vari, e quindi il fatto di protrarsi ancora per parecchio tempo in termini di arrangiamenti e registrazione mi ha comunque lasciato abbastanza assente su certi settori della vita, quindi su altre situazioni. Ma poi il fatto anche di, come dire, in questa epoca di social network in cui tutti bisogna essere costantemente presenti ogni giorno, ogni 10 minuti, cinguettare, dire qualsiasi cosa, mi sembrava, come dire, avere l'antidoto giusto per ritrovare la dimensione d'artista. Cioè un artista, se così mi posso definire, per carità, perché non sono io a dirlo, deve comunque sottrarsi comunque da questo tra virgolette show business per poter avere in qualche modo la possibilità di creare. E oggi è molto più difficile, nel senso che siamo sempre bombardati, siamo sempre connessi, e quindi facciamo molta fatica a ritrovare, come dire, una dimensione più intima. Quindi io mi trovo benissimo quando mi trovo con i miei musicisti e creo questi miei piccoli progetti, diciamoli progetti perché io faccio l'architetto, quindi per me è un progetto anche quello, quindi è musica, è un progetto, assolutamente. Sì, assolutamente. Ne sa qualcosa ben nato, visto che è l'architetto più famoso della musica italiana. Sì, infatti. Tu poi l'hai anche scritto sulla recensione. Sì, sì. Praticamente mi sono ispirato ad altri che l'hanno scritto, però per me è un senso positivo, non un senso negativo. No, assimilato parecchio anche lui. Esattamente. Sì, sì. Rompiamo subito il ghiaccio, sentiamo qualcosa di tuo. Sì, sentiamo qualcosa da disco, diciamo. È un brano che è già stato al Premio Lunezia 2006 ed era il primo brano pronto già per questo album, poi si è interrotto il tutto. Mi è sembrato giusto riproporlo l'anno scorso perché aveva comunque a distanza di tempo la stessa forza. E anche perché a livello di arrangiamenti, come dire, ho voluto molto avvicinarlo a un mio mito che è appunto Lucio Battisti, e soprattutto Lucio Battisti del periodo di fine anni 70. Tu lo ami proprio tantissimo. Lo Battisti. Amo tanto, ma soprattutto il periodo 76, primi anni 80, con Don Giovanni, anche l'apparenza, secondo me, l'apoteosi. Quindi più recenti, insomma, quasi. Sì, sì, quasi, comunque sì. Il post-Mogol, praticamente. Post-Mogol. Sì, sì. I fratelli sono serviti in questo caso. Ah, i fratelli sono serviti, esattamente. Nonostante i Police, sei arrivato anche Battisti. Niente, il brano si intitola Come te e ho avuto anche il piacere di presentarlo all'ultimo showcase di Casa Sanremo in occasione del Festival di Sanremo recente, l'ultima edizione, al Palafiori, e ha riscosso anche discreti consensi, diciamo buoni. Io dico sempre dico sempre di meno, però dico ha riscosso consensi perché ha comunque un impatto molto forte a livello radiofonico. L'ascoltiamo? Sì, grazie. Ok. Sicuramente come te, no. pretese. Duramente vuole attimi indicibili, ma passeggeri. Detta così sembra tutto fatto a regola di umana infedeltà. Facile no ricordarsi di mentire per difendere la propria sfera. Vivo e tentato mi trovo ad un bivio, nascosto mi scopro di più. Vivo auspicando il sorriso di chi da traiettorie impercettibili è arrivata qui senza pensieri. Come te, come te. Come te, sicuramente vuole attimi indicibili, ma passeggeri. No, non c'è, no, non c'è. Sicuramente come te, no. Come te, sicuramente vuole attimi indicibili, ma passeggeri. Ballo, salto. Allora, era... Dov'è? Ecco, sono partito io. È qua, siamo qua. Allora, dicevo, è partito lo stacchetto per ritornare in studio con Stefano. Allora, sei felicissimo, ti vedo allegro, simpatico. Sì, poi vabbè, ho confermato quanto... le impressioni che già mi avevi dato via mail, via Facebook, quindi siete, è uno staff fantastico. Maurizio ti sta facendo compagnia, vedo. Sì. Sì, adesso cominciamo. Allora. Buon professore. No, sto scherzando. E io qua nella recensione abbiamo scritto che Come te, che è il brano che dà uno scossone al disco, sì, lo apre in una certa maniera. Io voglio sapere una cosa, l'arrangiamento è molto interessante, si ricorda chiaramente forma Battisti, possiamo dire tra virgolette, sì. Ma forma Battisti non è un senso negativo, è forma Stefano e basta, Battisti è solo un appiglio. Io voglio sapere come mai sto arrangiamento, queste tastiere, visto che sei qua, vai davanti al microfono, mi dici perché queste tastiere così che entrano, sì, ed escono, che entrano ed escono, fanno una specie di aureola, circondano la voce di Stefano. Allora, rispondo io intanto. No, vabbè, al di là del fatto di rientrare, a me quando mi era venuta questa idea, diciamo, di questo abbinamento musicale, io momentaneamente l'avevo battezzata maggiore e minore, nel senso che accostavo un accordo minore a uno maggiore e per me aveva un, diciamo, un valore abbastanza simbolico, nel senso che c'era questa alternanza di dolore, gioia, di, diciamo, sì, dolce, amaro, dolce, amaro, questo agrodolce, insomma. Questa tendenza però si spostava facilmente dal maggiore al minore con uno spostamento minimo di note, quindi potevano essere, diciamo, idealmente due cose opposte ma anche molto vicine fra di loro. E mi ero divertito, quando avevo fatto sentire il provino a Stefano, ad alternare in continuazione questi due accordi, e nell'alternare era venuto fuori qualcos'altro che l'aveva colpito, e dopo da lì è partito. Lui si è inserito praticamente. Su quello si è inserito e ha cominciato, diciamo, a dettare uno schema testuale. In questo, sì, questo è un pezzo proprio che dà lo scossone, cioè muove veramente il disco, cioè l'EP, possiamo dire così. Lo fa nascere musicalmente, gli dà una certa forza, perché quella è una forza particolare. Questo perché giustamente nelle recensioni è stato scritto che tu giochi nel funky, giochi leggermente nello swing, giochi nel pop e giochi nella musica leggera. Qualcuno ha scritto: è ritornata la musica leggera, nel senso positivo. Io penso è ritornata la musica pop più che leggera. Sì, sono d'accordo, perché la musica pop col termine... Pop vuol dire popular, ragazzi, quindi sì, sì, vuol dire assolutamente a fase positiva, chiaro, non negativa. Ecco, il problema è che il termine pop secondo me andrebbe contestualizzato, cioè il pop che consideriamo adesso, o comunque quello che va più in voga, è quello che esce comunque dai talent, da situazioni, sì, che comunque sia hanno la loro dignità e hanno il loro pubblico, per carità, rispettabilissimo. Però io per pop intendo, adesso non senza arroganza, un pop come dire adulto, e quindi con diversi riferimenti a altri mondi musicali. Il pop per definizione secondo me ruba ad altri generi per renderli appunto disponibili, sì, e fruibili, alla massa, certo, non so come dire. Sì, comunque, certo. E quindi il fatto di la mia trasversalità musicale, che è tanto conclamata prima anche fuori onda, ma non è mica la fase negativa, la fase positiva. No, sono felice di come dire, di sguazzare in questo humus, perché a seconda dell'ispirazione testuale io vado a comunque a riprendere un mondo che può essere bossa nova, uno swing, certo, un funk, perché veramente, cioè, non riesco a trovare un genere che non mi piaccia. Cioè la musica bella è musica bella, che può essere musica popolare, liscio, e quindi non trovo discriminazioni in tal senso. E Michele, musicisti come Michele, come ti seguono in questo girovagare musicalmente parlando? Ma guarda, innanzitutto togliamo tutti, come dire, i veli, nel senso che io non sono musicista assolutamente. Io ho un passato di cover band, dove cantavamo anche a cappella. Quindi io scrivo testi e melodie e anche la musica, ma però come dire, aiutandomi con sequencer e cose simili. Una volta c'erano i multitraccia, e vado a cercare anche le note dietro cantandole, perché quando sono arrivati Neri per caso per me è stata una folgorazione, perché ho detto: cavolo, allora anch'io posso arrivare a questo, posso arrivare a quello e fare come dire un prodotto completo che anche i musicisti riescono a capire. Devo dire che i miei musicisti sono grandissimi amici, hanno una grande pazienza, devo dirlo, perché mi seguono in questo percorso. Quando arrivo con i testi e con le melodie, poi alla fine con gli anni si trovano certe sinergie, che magari l'accordo che c'era in quella canzone te lo ritrovi lì, quindi sono meccanismi che poi vengono alla fine più oliati, quindi alla fine più spontanei. E questo pezzo che difficoltà ha avuto? Come l'avete costruito fra te e Michele e gli altri che ti hanno dato una mano? Guarda, ti dico, questo pezzo mi hai detto che è stato fatto in 5 minuti. Sì, quando mi ha dato il provino musicale con quel riff di piano, ho provato a giocare incessantemente rimanendo su quegli accordi. Infatti gioco proprio sul, sì, il gioco di due accordi, quindi nulla di più, alla Battisti, proprio come la canzone del sole, no? E ecco, mi è venuta talmente di getto che ho detto: no, non devo cambiare neanche una virgola, perché la sento talmente fresca e se la tocco ancora la rovino. Quindi volevo, come dire, portare avanti questa freschezza e protrarla anche nell'arrangiamento. E ho pensato: perché un cantautore non può dialogare con la dance pacata o la chill out soffusa? Con bel basso, chitarra, insomma. Sì, sì, con la cassa in quattro. Esatto. Beh, dici, il cantautore di solito è quello con la chitarrina che si deve mettere in un angolo. Perché no? Cioè, il cantautore, quando si dice il cantautore, si pensa ai cantautori degli anni 70, ovviamente, giustamente, ai grandi maestri che avevano anche risvolti sociali. Scrivevano di risvolti sociali. Però un cantautore anche che scrivo, che parla d'amore, secondo me può, come dire, interfacciarsi anche con altri mondi musicali senza tuttavia essere sempre comunque credibile. Il fatto poi di scrivere un brano d'amore come te, che se tu leggi tra le righe nel testo parla di una persona che è stata lasciata, nella melodia italiana avresti l'interprete che dice: oddio, mi hai lasciato, come sto male, mentre questo se ne va in discoteca e dice: cavolo, me ne trovo un'altra come te, sicuramente come te no, capisci? Quindi il fatto di vincere questa sorta di italianità. Tu parlavi prima di Casa Sanremo, giusto? Sì. Io so che ci sei andato con una, come dire, nostra cara amica di questa emittente. Ma sinceramente non ricordo. Ma non ricordi? Io so che ci sta ascoltando e magari è la Giulia, te la ricordi la Giulia? Sì, carissima Giulia. Ho avuto il piacere di conoscerla lì, è una ragazza dolcissima. Mm-hmm. Mi ha colpito subito la sua voce. E mi ha dato l'impressione di uno scricciolo che avesse dentro di sé un mondo tutto suo. Sai che è una nostra carissima amica, vero? Sì, sì, no, lo so assolutamente. La salutiamo, la vogliamo salutare? Sì. Ciao Giulia. Giulia. Ciao Stefano. Oh, che sorpresa Giulia. Mi hai commosso per le tue parole. Scusa un secondo, ma adesso dovrebbe uscire la Carrà, giusto? No, veramente, che sorpresa, non me l'aspettavo. Come stai Giulia? Io sto bene, vuoi che non ti avessi ascoltato, insomma? No, infatti, poi ho detto, se vediamo, domani la chiamo e vediamo se ha seguito tutto per bene. Come stai, tutto ok? Io sono tutto ok, ti sto ascoltando con molto interesse, ascolto sempre Blu Radio Veneto perché è una bellissima radio, è uno staff di eccezione, no? Persone che veramente fanno la musica e ascoltano la musica con la passione di ascoltarla. E se ne fossero sempre di persone così. Sono d'accordo. Ho avuto modo appunto di constatare che hanno un'umanità incredibile. E il fatto di differenziarsi appunto da altre radio gli fa sicuramente onore. Basta che poi ci riempi di troppi elogi e diventiamo rossi. No. Sì, non ci sono le telecamere però. Ma c'è anche il logo di Blu Radio, sta diventando rosso. Sì, esatto. Giulia, tutto bene tu? Io tutto bene, però questa è la tua serata, quindi non ti rubo ancora più spazio, no? Perché già il tempo vola e vedrai che... Ti confesso che ho un po' di brividi e vorrei abbracciarti e ci sentiamo in separata sede. Ci rivedremo, no? Sì, sì, sicuramente. No, anche perché volevo sentire un po' i tuoi progetti futuri, anche musicultura, che poi non so com'è andata, quindi... Musicultura, sono arrivata in semifinale. Ah, bene. Sono arrivata lì, però sono contentissima di esserci arrivata. No, già essere in semifinale vuol dire infatti. Che hai dato qualità e quindi sicuramente. Poi ho ascoltato il tuo album, che io ti ho promesso sempre che ti facevo questa benedetta recensione. E prima o poi arriverà. Nelle vacanze di Pasqua me la sono ascoltato per bene, ti dirò che già i primi tre pezzi mi avevano colpito subito, soprattutto Fragola, la seconda, ecco, non ricordo Fragola il titolo. Sì, Fragola insipida. Mi fa piacerissimo. Goditi questa serata e io continuo a ascoltarti da casa. Ti ringrazio Giulia, sei gentilissima. Un bacione e un abbraccio grosso. Ciao bella, noi ci vediamo, ci vediamo presto. Ciao, ciao Giulia. Ciao. Prestissimo, il primi di maggio qui a Padova suona, canta Giulia Daici. Sì, a presto. Sì. Un bacio, ciao. Ciao bella, ciao. Ciao. Allora, sei pronto? Adesso ci fai qualcosa dal vivo, così magari... Sì, adesso questa telefonata di Giulia mi ha azzerato la salivazione. Ti ha fatto piacere? Sì, molto, perché le adoro Giulia. Sì. Ha cambiato anche colore. Ecco, sì, hai visto, adesso è più rilassato. Ha fatto un... Rosso Radio Veneto, leggo la 9. Allora, cosa ci proponi adesso? Ma, ecco, adesso stiamo... In un clima abbastanza allegro, la scaletta prevede, preparata col maestro Michele Bellagente, il brano forse più triste e più intimista dell'album, perché volevamo partire un po' in sordina. Diciamo che il pezzo, secondo me, è uno dei pezzi migliori che ho scritto, nel senso più profondi. Il titolo è Solito Riff e parla di un riappropriarsi, diciamo, della capacità di innamorarsi nei confronti della vita, del mondo, delle donne. Qualcosa che si era perso per strada, un po' come il Dante che entra nella Selva Oscura, infatti appunto all'inizio c'è questa citazione che esente da diritti d'autore, quindi certo. non ho problemi di sorta. Il brano si intitola Solito Riff. Qui nel mezzo di questa mia vita sola. selva oscura, ma attenderai o sarai tu come lei una parentesi che non si rinnega. Eccolo lì, solito riff di una canzone ancora, ancora in voga, fermo in stand-by, vorrei schiacciare play, ma tutto torna con rewind, compresa lei, quasi un'ombra, quasi mai, quasi sempre come aspetterei, momento che supero, con un polso, con un mio movimento impercettibile, reo per te che non sai. Nessuno è come sei, pareti di memorie dentro cadono, sul desiderio di te che non sai, che niente qui si illumina più, c'è un groove di stelle appiccicate che non volano nel firmamento statico. Eccoci qui, scaraventati a una tagliente attesa, appesi a cosa ti metterai al fianco come lei o verrai a sorprendermi nell'inventario fatto da un po' sulle cose dette mai, quelle dette quando non dovrei, momento che supero con un polso, con un mio movimento impercettibile, reo per te che non sai, che nessuno è come sei, pareti di memorie dentro cadono, sul desiderio di te che non sai, che niente qui si illumina più, c'è un groove di stelle appiccicate che non volano nel firmamento statico. Oh no, momento che superò. Canzone ancora, ancora in voga, eccolo lì, solito riff di una canzone ancora, che nessuna sa, nessuna è come sei. Dolcezza, dolcezza e ancora dolcezza. Grazie. Vero? Adesso ci siamo sciolti, Stefano, eravamo un po' tesi, tutti un po' emozionati, io per primo, perché vederti, conoscerti di persona è stato per me un grandissimo piacere, io lo dico apertamente, pubblicamente, perché sei un carissimo amico per me. Ti ringrazio. Prima di essere un cantante. E lo posso confermare perché quanto ci siamo scritti e detti e telefonate. Telefonate, è stato un parto, quindi diciamo, abbiamo avuto una gestazione lunga. Sì. Abbiamo parlato un po' troppo prima, siccome scusa. Sei già... No, figurati, nessun problema, io stavo facendo una battuta la mia. Siccome sei già caldo, sei adesso ci sei sciolto, sì. Io direi di farne subito un'altra. Volentieri. Così? Sì, sì. Cosa prossimo scelto? Brano che vogliamo proporre io e Michele è Dove si può volare. E, nell'arrangiamento originale c'è un basso funky sleppato, lì il mondi sono quindi Earth, Wind & Fire fino a John Legend, poi però nel ritornello ritorniamo su una melodia italiana, certo. Quindi la commistione di queste due cose mi è sempre piaciuta e parla praticamente di una situazione di conflitto che avevo con diverse persone che bloccavano in un certo senso la mia vita e cercavo la possibilità comunque, se non di volare, di trovare comunque pagine uno spazio. E fogli. Ok, ci siamo pronti? Ok. Luna Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Spesso è sintomo di nuova instabilità, ma non è solo amore. È disarmante il disegno nato dalle profondità, mi viene da vomitare. Riqualificare in te tutto quello che non va, per sentire l'ipocrisia più pura. Prima di passare in centro col tuo defile, non serve a te una camicia nuova. Tu con un'onda mi seppellirai di parole, frasi fatte adatte ai tuoi. Chiedere scusa mai. Io come un'ombra non ti seguirò, perché quello non è il ruolo che poi io avrò, dove non ci sarai. Ti basta niente a suscitare attorno nuove perplessità, contesto già rivisto. È disarmante progettare canzoni da qui all'eternità, non sono un ingegnere a tempo, tempo, tempo. Sbagli, suoni, corsi e ricorsi nelle modalità, ma si perdonerà tutto a un artista. Col tatto di un elefante quasi bambino e quella faccia da, sembri quasi fatto apposta. Tu con un'onda mi seppellirai di parole, frasi fatte adatte ai tuoi. Chiedere scusa mai, come sempre, io come un'ombra non ti seguirò, perché quello non è il ruolo che poi io avrò, dove non ci sarai. E non mi basta il raggio delle profondità, fino quasi a non volerne più. Ora sei più contorto, con rima ermetica, mi costringe a traslocare tutto dove si può volare. Finisce sempre in questa maniera languida, lascia questo, do questa domanda, questa frase un po' così nel sospeso, spopolare. C'è una cosa da dire in questo pezzo, ci sono due chiavi di lettura. La chiave di lettura funky, all'inizio c'era funky. Voi cari ascoltatori non avete notato, ma io sì, io sono proprio nella fossa dei leoni. Ho visto Michele che si inebriava quando suonava il funky, poi andava, girava, giocava con la tastiera. E lo stesso faceva Stefano. Poi Stefano si è rallentato, è tornato il romanticismo e Michele si è rallentato. È un tira e molla nel senso positivo del termine musicalmente. Mentre il pezzo prima, che non abbiamo parlato, nell'originale c'era una bella tromba. Sì. Che sì, chiaramente sì. Chi la suonava la tromba? Ma la tromba è... la suonavano un musicista? No, ascolta. Dimmi. Ecco, questo... disco in tempi di crisi è stato fatto con un budget ho capito, c'erano dei suoni che ok, quindi era bello, era significativa, sì, però sì. I critici ne hanno parlato molto bene di questo inserimento della tromba, di questo suono di tromba. Sì, direi che sono molto anche soddisfatto dell'arrangiamento di archi che ci sta sotto, certo. Che adesso ovviamente non si è sentito, però cantano quasi nel ritornello e quindi danno un impatto maggiore. Ma ritorniamo a questo pezzo funky che abbiamo sentito, sì, adesso sì. Si vede che ami il questa commistione. A proposito di questo, salutiamo la Martina, che ama anche lei, la nostra ascoltatrice, ama molto le commistioni tra funky e melodia. Ah, ok. E questa commistione, questo introdursi nel gruppo funky, nel momento funky, per poi tirare fuori la melodia, che la melodia è la chiave di volta di tutte le canzoni. Sì. Non è così, Stefano? Sì, sì, chiaro, chiaro. Ma il fatto di mettere insieme due monti abbastanza dissonanti ha significato per me molto, perché già nel testo, come ti dicevo prima, questa canzone parla di conflittualità, certo, e quindi di rimandi, di tira e molla con queste persone, quindi un po' mi concedi qualcosa e un po' no. Quindi il fatto di avere questo ritmo sincopato, quindi questo stare sempre un po' in ansia, per poi rilassarmi e dire no, fai la tua vita, io faccio la mia, e comunque sia amici come prima. Un pezzo dal vivo, adesso abbiamo fatto dal vivo in fase acustica, sì, un pezzo dal vivo come questo, come viene svolto da Michele, da te e dagli altri musicisti? Citiamo gli altri musicisti che non abbiamo ancora citato, infatti, allora, della band. Sì, oltre al qui presente Michele Bellagente, che sta giocando in senso positivo con le tastiere, via, va da una parte all'altra. Noi tastiere. Poi lo chiamiamo Mister Piano, ma io lo chiamerei Mister Piovra, visto come sì, esatto, Mister Piovra, hai ragione. Come si muove. Nuove. E, c'è da ricordare innanzitutto Enzo Galantino, che è mio amico chitarrista, con cui sono partiti appunto un po' tutti i provini iniziali, e che è stato forse la persona chiave che mi ha dato consapevolezza per aprire comunque una mia strada cantautorale, e lo devo ringraziare molto per questo. E, poi troviamo Laura Forgia, che è la moglie ed è qui presente Michele Bellagente, che suona in un pezzo, anche che canta in un pezzo, che suona in un pezzo, mi fa anche i cori in un altro, esatto, brano, che io saluto perché ha una bellissima voce, sai che ne abbiamo parlato, sì, anche. Che tu mi hai detto che è una bellissima donna, diciamo. Michele può confermare, quindi chiudiamo il cerchio, come stanno le cose. È bugiardo, non è vero. No, comunque, nel senso che non mi permetto, sì. C'è, cioè, Laura Forge, che è una notevole chitarrista e cantante, molto brava anche lei. Poi abbiamo Domenico Russo, che ha collaborato con me, che è stato anche il primo chitarrista di Nolce Nera nella primo tour di Siamo Tutti Là Fuori, certo, fonico di Lucio Fabbri in certe occasioni, che ha scritto il brano e ha duettato con me Io Senza Lei, nel brano Io Senza Lei. E poi sto ricordando Cristiano Baccherotti alla batteria, Roberto Pedroni al sax invece contralto Maurizio Moraschini, e tutto condito dalla sapiente regia del mio corrangiatore grandissimo Livio Boccioni, che nel suo studio Noiseland, facciamo pubblicità, sì, nel certo, suo studio Noiseland di Noviglio, Rovigo stavo dicendo, vabbè, aprirà pure qui, dai, di Noviglio, ha, come dire, ha tessuto un po' le trame musicali, cercando di assecondarmi. Devo dire che è stata una chiave di svolta notevole aver conosciuto Livio, perché lui è praticamente un compositore e lavora per editori musicali, quindi lavora per documentari, quindi ha, come dire, una certa versatilità. Visto che io cercavo di fare un disco pop comunque che, come dire, spulciasse un po' da altri generi, questa versatilità di base mi è servita tantissimo, e poi è stata la chiave di volta un po' di tutto l'album, e lo devo ringraziare per questo. Benissimo, benissimo. Allora, io vi ricordo che questa è sempre la Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita. Io amo dire sempre questo qui, perché insomma, se siete sintonizzati in questo preciso istante è perché appunto preferite questa emittente di Padova, che trasmette 24 ore su 24. Abbiamo in live tutte le sere queste fasce orarie, chiamate o Blu Radio Sera oppure Rock Wave. Questa sera, ogni giovedì ovviamente, dalle 21 alle 22.30 c'è sempre live con il sottoscritto, cioè Agostino Spolaore, e con Maurizio Calzavara, che è il mio fedele compagno. Questa sera, come dicevo all'inizio, abbiamo uno che è momentaneamente assente, ma che è fisicamente presente qui, che e si chiamano e ci fa contemporaneamente e si chiama Stefano Ardenghi. Tu sei pieno di gente che ti sta salutando, eh? Veramente? Sì, sì, sì. C'è Roberto Giordi. Oh, ti saluta. Grandissimo cantautore, grandissimo, sì, sì. Che mi ha fatto scoprire Paola Menio, che salutiamo. Che salutiamo, che probabilmente sarà all'ascolto, speriamo, poi magari ci saprà dire. Poi c'è Lu Verardi. Sì. Aldo che mitico Aldo, che poi nei suoi commenti è sempre molto... Massimiliano. Sì. E poi abbiamo un collega di Radio RCS, una radio, che si chiama Fabio Romano. Grande Fabio Romano, mitico Fabio Romano. Noi lo salutiamo, casomai saremo noi la prossima volta che l'ascolteremo, magari, Maurizio. Certo, noi certo. Ringraziamo le cugine o le amiche, insomma, ci ascoltano, ci fa sempre veramente molto molto piacere, e ti fa tantissimi complimenti a te, perché sei una gran bella persona, dice, sì. Complimenti per la trasmissione, un gran artista, e un abbraccio, dice. Ma Michele sentire, vedo che comunque il bonifico è andato a buon fine. È andato a buon fine. E poi abbiamo una dalla Sicilia, una di un'altra radio, Radio Web Italy, si chiama Barbara Scardilli, che ci sta ascoltando, e la salutiamo anche lei. Quindi, salutiamo Barbara. Grazie. Abbiamo... Un bacio. Allora, sei pieno di gente qui che ci sta ascoltando. Bene, bene, bene. Blu Radio Veneto è un virus. È un virus, virus positivo. Si sta allargando. Sì, sì, sì, sì. Poi, tra l'altro, sai, siamo ascoltati moltissimo anche dall'estero, perché ci hanno fatto. Sì, abbiamo avuto dei riscontri positivi, nel senso di messaggi, di saluti, eccetera, eccetera, che ci stanno ascoltando, ma dai posti più. Addirittura dall'India una sera. Ah, però. Cioè, guarda, veramente Nuova Delhi. Una cosa pazzesca. Veramente strano, ma ci fa veramente, ovviamente, un enorme piacere. Michele, dicevo che dovevamo preparare un pezzo in India. Ossita. Prossima volta. Si sposa con la tua. Beh, adesso stiamo scherzando. Sì. Ma il Sita si sposa facilmente con l'introdurre determinati suoni, sviluppare determinate armonie. Tu che sei una persona che ama non andare in un certo solo in una via, ma percorrere tante vie musicali, può darsi che il Sita sia anche uno dei protagonisti di qualche pezzo tuo, fra qualche, non si sa mai. Ma può essere, guarda, in questi giorni sto componendo, diciamo che sono abbastanza prolifico, sarà la primavera, non lo so. Può darsi, sì, sì. E, vedo che comunque i pezzi che faccio ovviamente hanno un fil rouge con questi, perché sono sempre io, però vado a toccare mondi musicali che qua non ci sono. E quindi lo swing, che qui non è citato, però certo, fa parte del mio progetto parallelo. Adesso lo citiamo questo progetto parallelo. Lo citiamo. Allora, il progetto parallelo si chiama Sus Band, nel senso che è un gruppo che nasce dalle ceneri del TMI Group. Che era un altro gruppo vostro. Un altro gruppo che avevamo fondato io e Tiziano Ravasi. E dopo, per motivi anche legati alla salute del mio collaboratore, si è sciolto, si è riformato questa Sus Band con praticamente tutti gli elementi che erano presenti nell'ex TMI. Nel team, sì, precedente. Con il TMI avevamo fatto un primo CD al titolo Coriandoli di Luna, che è uscito ormai la bellezza di 10 anni fa. E nel riformarci come Sus Band abbiamo pubblicato, diciamo 2 o 3 anni fa, un altro CD dal titolo Dov'è il tempo? Dov'è il tempo, che tra l'altro nasce proprio da una esperienza che abbiamo fatto al Premio Lunezia da Ulla, quando avevamo vinto come gruppo con il brano Se vuoi, appunto di Tiziano, mio di Tiziano, era nato lì proprio, eravamo ospiti in un agriturismo, a Tiziano è venuto un estro improvviso. Avevamo fortunatamente una tastiera che ci ha messo a disposizione la titolare dell'agriturismo. E avete cominciato a suonare. Sì, Enzo alla chitarra, io al piano, abbiamo cominciato a andare dietro all'estro di Tiziano e abbiamo composto. Abbiamo composto, sì. In una calura estiva incredibile. 22 forse, luglio del 2004. È forse una delle estati più calde. Sì, è stato un bollore proprio. Però è stato positivo che avete composto il pezzo. Sì, è stato molto utile, sì. E dicevo, questo progetto lo stiamo portando avanti appunto da quando abbiamo pubblicato il CD. E niente, siamo in continua fase creativa, nel senso che vuoi un po' con i brani di Stefano, vuoi con i miei e di Tiziano, perché nel frattempo si è un po' ripreso dei suoi problemi di salute, abbiamo ripreso a scrivere qualcosa insieme. Io collaboro anche con un altro autore di testi che si chiama Antonio Gatti, con cui ho proposto altri brani sempre al gruppo, e stiamo portando avanti questo progetto che ha diverse cose comunque in comune con quelle che sta portando avanti Stefano da solo, perché quello che ci unisce, cioè la matrice comune, è quella dello swing, soprattutto, sì, certo, della bossa nova. Certo. Diciamo, questi sono, e oltre naturalmente al pop cantautorale, che comunque è un po' il triangolo che ci lega e che ci ci tiene magneticamente tutti attaccati. Benissimo, chiarissimo. Io ti porto i saluti anche di un altro mio carissimo amico questa volta, tu non lo conosci, è il direttore artistico di Radio Canale Italia, quindi a livello circuito nazionale, e si chiama Massimo Matria, lo saluto caramente perché ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, proprio agli albori delle radio, trasmettevamo insieme, ti sta ascoltando, ti porta i suoi più cari cordiali saluti. Contraccambio, mi fa piacere che sia all'ascolto, non abbia cambiato canale. Allora, sei pronto per cantarci ancora qualcosa? Sì. Io ti voglio sentire, insomma, la tua forza. piazza alla musica, ed è giusto, insomma, oltre alla tua bella persona, insomma, che abbiamo poc'anzi detto. Cosa ci fai ascoltare adesso? Ma adesso abbiamo Blues di un'ora, che... Un'ora, Blues di un'ora. Un'ora? No, dura anche due, se vuoi. Facciamo un'improvvisazione free. No, allora, questo brano è, forse, devo dire, è il primo... che è stato, non il primo che ho scritto, ma è il primo che è stato scritto pensando a questo progetto. Se prima dicevo che Come te è il primo che è stato realizzato, che è stato portato all'Unezia 2006, Blues di un'ora è stato il brano della consapevolezza, nel senso, appunto, dire ok, voglio cimentarmi e, come dire, portare avanti un progetto parallelo che ha comunque una sua dignità. E ricalca, la musica è partita dal mio chitarrista, da Enzo Galantino, che abbiamo citato prima, sì, molto vicino alle sonorità di George Benson e Pino Daniele, che un po' ci ha caratterizzato, diciamo. Io ho anche scritto nella recensione, cioè la redazione ha scritto che possiamo chiamarlo anche confidenziale nel senso positivo del termine. Sì, diciamo. Sei d'accordo? Sono d'accordo, perché poi nella tracklist è la traccia 3, no? Se vogliamo, la prima è Come te, pop radiofonico, martello in cassa in quarti, la seconda è un funky, soltanto brividi, la terza torniamo ad essere un po' più crooner, no? Sì, più crooner, esattamente. E quindi entrare un po', ecco, noi abbiamo, come musicisti, abbiamo il grande sogno di andare in un locale che è il Blue Note di Milano. E la suonare. Rimarrà lì come meteora. Mai dire mai. No. Mai dire mai la provvidenza, quindi ci può arrivare. Devi crederci. Stefano, no. Sì, ci credo. Come allora, quando gioco Super Nalotto, è un po' più difficile, però al Blue Note forse è più facile. Il problema è che non riesci neanche a controllare adesso se hai vinto Super Nalotto. Se ce la faremo Blue Note di un'ora. Blue Note. Un altro pezzo. Perfetto, benissimo. Sai che è un'altra fame e poi resti lì, metti a posto le posate in attesa di meglio, non ti parleranno, guarderanno solo i fiori sopra il tavolo. Se divieto sognare, lascia lì. Lasciali fare, che ben presto andranno, solo di te parleranno, con chi ha messo i propri sogni sotto il tavolo, sogni sotto il tavolo. Tira fuori il meglio, tira fuori un altro te, fuori dal cassetto quello che credevi perso, un pezzo è tu. Chitarra è tua complice, le parole presto han preso il posto delle chiacchiere su un blues di un'ora. E se gusterai per bene quel poco che si fa, quando ti sentirai in catene in attesa di meglio, forse ti basteranno i ricordi messi sopra quel tuo tavolo, come faceva quel tuo blues, e lo ricordi ancora. Ricordo ancora. Tira fuori il meglio, tira tira fuori un altro te, fuori dal cassetto quello che credevi perso, un pezzo e tu. La chitarra è tua complice, le parole presto hanno preso il posto delle chiacchiere su un blues di un'ora. Io me la immagino dal vivo questa canzone, credo sia molto bella da vederla. È molto swingata alla fine, esatto, è molto swingata. Sì, sì, sì. No, con la band poi ha il suo perché. Il suo perché, come si dice. Ha un certo sapore, poi si vede che avete dato molta grinta. Poi si vede anche il finale crooner, decisamente è un pezzo da crooner questo qua, si vede poi. E il tuo trascorso in una band che faceva anche... pezzi a cappella si sente soprattutto, sì, nel finale, sì. E vuol dire questo qua, secondo me vuol dire avere un bagaglio musicale che poi sviluppi nel discorso solista che sono tu fai. Sono d'accordo, perché poi andare ad affrontare il gospel, gli spirituals, lui è un amante, un amantissimo, non si può dire, ma lo possiamo dire lo stesso, di quel genere musicale. Davvero? Si può dire, sì, perché non mi vergogno assolutamente. Non ti tagliano comunque. No, puoi dirlo. Io amo molto gospel, Stefano. Ah, bene, mi fa molto piacere, perché comunque anche con Michele ho condiviso questo progetto iniziale prima del TMI Group, come si chiamava il gruppo? Eppur si suona band, tutto attaccato. Poi fuori diretta ti do una cosina, perché probabilmente io e Maurizio stiamo preparando una mega sorpresa ai nostri ascoltatori per fine anno, ma a proposito di gospel. Ah, ottimo. Ma te lo dirò. Cioè, ti vedremo col sì, con la tunica tutto pitturato di nero. Va bene. No, comunque sì, il gospel è, parlando di musica nera, è un po' la madre di tutte le musiche. Ma c'hai il black nelle tue vene, c'è qualcosa di black? Sì, decisamente. Anche di Michele, sì. Michele comunque ha un i tasti neri tasti neri ce li hai, però sì, il black si vede, cioè si vede anche se voi vi andate sul palco, si vede nonostante maglione bianco ma dal punto di vista anche musicale stasera questo pezzo, sì, abbiamo parlato di swing, ma il black c'era ti veniva fuori, si allontanava ma veniva fuori, c'era quel sì, costrutto in senso positivo del termine. No chiaro, e io non lo so, definisco la musica black o comunque il gospel anche in genere la musica dell'anno. E quindi alla fine quando vai a toccare certe note. Quale ti piace di gospel? Il moderno? Ma ce ne sono tanti. Adesso facevamo Sweet Lord, Sweet Chariot, classici, Go Down Moses. I classici, non i moderni. Ti piacciono invece quelli? Qui Kirk Franklin, Cat Care, tutta quella gente. Vabbè, tanto di cappella anche loro, non assolutamente. Allora, ma a proposito di gente extra, diciamo, Stefano, tu cosa ascolti a casa, quando sei a casa? Allora, non vorrei ripetermi veramente. Però prima, scusa se ti interrompo subito, sì. Maurizio, dovevi salutare una persona. L'ho già salutata. Non l'ho sentito. L'ho già salutata. Beh, la risalutiamo, salutiamo la Martina. Ciao Martina. Allora, dicevi, Stefano... Dimmi. No, dicevi. Cosa ascolto a casa? Sì. E ascolto veramente di tutto, nel senso, stavo dicendo prima, sempre fuori onda, al tuo collega che... a parte la fortuna di avere due fratelli che mi hanno nutrito a pane cantautori e poi musica straniera, Police, Peter Gabriel, poi la folgorazione per Donald Fagen, Steely Dan. e questa cosa qui è George Benson. George Benson, questi mondi musicali. Ti dirò che ultimamente mi sono anche un po' spostato sul chill out, su certe cose lounge, i Gaben, che molto raffinati, allora. Sì, sì, la raffinatezza musicale mi piace molto, quel mondo. E anche me... i vocalizzi, questo non dico i Manhattan Transfer, che sono un mondo un po' lontano, però insomma. Beh, hai citato un gruppo storico, perché il primo CD che abbiamo fatto col qui presente Michele, con i team e gruppo, dal titolo Coriandoli di Luna, ha avuto come riferimento il vocalese dei Manhattan Transfer. Il vocalese, certo. Spieghiamo che... Spieghiamo in poche secondi. È comunque il tradurre tramite vocalizzi, e quindi... Eccoli qua. E tradurre tramite vocalizzi, quindi utilizzare la voce come se fosse uno strumento. Certo. E quindi il nostro primo CD come gruppo è stato molto improntato su quest'ottica, e quindi gli arrangiamenti, la vocalità, la coralità. Dimmi, Michele. No, stavo dicendo che appunto vocalità, ma soprattutto il gusto per le dinamiche. Ecco, gusto per le dinamiche. Oltre alla coralità c'era anche un'attenzione, come adesso attestavi tu per Blues di un'ora, ha un senso della dinamica del tipo forte piano, ma soprattutto un'attenzione a una particolare espressione del sentimento a seconda del contesto, ma soprattutto del momento della canzone, il momento crooner, come dicevi tu, alla certo. fine. Il senso anche della circolarità per certi casi, però in particolare la dinamica è un po' presente sempre nei brani di Stefano, comunque anche del nostro gruppo, e simboleggia un po' anche il titolo del CD, perché questo momentaneamente assente, io lo vivo così. La musica non è fatta solo di suono continuo, ma anche di pause. Chiaro. Quindi quel momentaneamente assente della nota sta a esaltare, in questo caso, il suono che verrà. Adesso Michele ha parlato profondamente da musicista, hai sentito? Sì. Profondamente, ma da cosa musicista. Ascolta Michele? Contrariamente a quanto diceva prima Stefano. Che... Tu invece, Michele, cosa ami? Ma allora, io sono cresciuto, diciamo, la mia prima passione dal punto di vista compositivo è stata trasmessa da Caputo, Sergio Caputo, con lo swing in particolare. Successivamente, non so, da Sergio Camariere, dicevamo in Manhattan Transfer, così. Poi Jobim, Bossa Nova, quindi ho un retroterra anche di musica classica, quindi Bello. Perché comunque, avendo studiato pianoforte al conservatorio, ho avuto anche questa matrice qui, privilegiando Mozart, che si sposa facilmente, si sposa bene con le matrici di Stefano, assolutamente. Sì, che poi coniugatasi successivamente col jazz, sentendo un impasto perfetto. Sì, ha creato un impasto perfetto, direi che ecco questo, diciamo la matrice alla lunga. Poi in questo periodo, avendo anche due bimbi piccoli, mi sto nutrendo a suono di Sergio Camariere, Rino Gaetano, Manhattan Transfer, per non disdegnare comunque anche degli ultimi, non so, un Adele che può sempre del sabato invernale. Eccolo qui, esatto. Eccolo qua. Esattamente, caro Sergio. Grande link. Io invece a casa mi ascolto sempre Stefano Artelli. Anche qui il bonifico è andato a buon fine. E c'è una canzone che si chiama Soltanto Brividi. È un ricatto, no, sai già che prima o poi cadrò. Giochi all'ora di parole, sensi unici, quei soliti giri concentrici. E non ho capito ancora che il mio spazio è già qui diventato straccio di centimetro. Saprei sciogliermi al contatto, baby. Col funky. Ora è tutto facile, sono brividi. la gonna come in bocca e poi lei si dirige un'altra volta a me. Colla i piedi, sempre in pista, sola resta, resta con me lì dove. Tutti i piedi, tutti i piedi, ora balla, ora spalla, con la testa, non segue me come mai. Sciogliermi al contatto, baby. Ah, ah, col funky. Ora è tutto facile, sono brividi, brevi, brevi. Ah, col funky. Saprei sciogliermi al contatto, baby. Oh, ah, ah, col funky. Ora è tutto facile, sono. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Stefano qui, saluti, sono tantissimi da fare. C'è Lucio dalla provincia di Bergamo, se non sbaglio, che sta ascoltando, ti fa i suoi più cordiali saluti. Ciao Lucio, grazie. Poi c'è dalla Liguria un ufficio stampa che sta ascoltando, si chiama Antonella, la direttrice, chiamiamola sì, così, sì, sì, io sì. La saluto caramente. E poi ancora c'è un tuo fan che ti vuole salutare. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto? Sì. Pronto, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Piacere di conoscerti, chi sei? Buonasera, ciao Stefano, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti un paio di mesi fa. Sei? Identificati. Allora, ti do degli indizi. Allora, sono ricciolino, moro, abbastanza belloccio e conduco una trasmissione su Rai 1 che si chiama L'Arena. Questa è Paola, questa è Paola. Paola già stavo tremando, guarda. Quando ci vediamo a Milano non so che ti faccio. Ciao Paola, come stai? Hai visto che ce l'ho fatta? Sì, hai sì, bene, tutto grazie. A posto. Sì, tutto a posto, grazie, gentilissima. E sì, mi sto ascoltando, tutto bellissimo, bravissimo. Ti ringrazio. E vedo che è stato, come dire, ho seguito il tuo consiglio, mi hai detto vai, vai da Agostino, vai dai suoi amici perché veramente ti trattano. Voi non vedete adesso, ma qua ci sono tappeti rossi proprio. Sì, tu l'hai pagato? Sì, sì, sì. Dopo alla fine facciamo i corsi. Sì, va bene, scambi di bonifici a go-go qua. Vabbè, comunque, Paola, mi fa molto piacere, tu come stai? Dai, io sto bene, sto molto bene. Quindi ho approfittato, me l'ho segnato, giovedì mi sono ricordato, poi vabbè, giovedì so che Agostino ha questa meravigliosa trasmissione insieme a Maurizio. Davvero. Mm-mm. E quindi non potrai più interrogarmi, perché mi hai scritto su Facebook e tu guarda che ti interrogo per verificare se... Ma guarda, questa Paola Memeo in arte, Amélie, è una grandissima artista secondo me, e l'ho conosciuta al premio Poggio Bustone l'anno scorso. Oramai siamo catalogati qua, Blu Radio Veneto, sanno il nostro DNA, e poi ho avuto il piacere di rincontrarla a Casa Sanremo in questo bellissimo ed ecco contest. Perché ti ho fatto questa sorpresa, perché io ancora qualche mese fa, loro, sia Giulia che Paola lo sanno, gliel'ho detto chiaramente, avete pubblicato, se non mi ricordo chi, credo alla Giulia, una fotografia che siete voi tutti e tre assieme. Quando l'ho vista, ci credi, mi sono veramente emozionato, mi sono venuti i brividi, ho detto guarda qua, i tre cari amici, tutti e tre insieme a Casa Sanremo. Mi fa molto piacere. Vero Paola, te l'ho detto anche alla Giulia, mi sembra. Sì, bellissimo. Guarda, peccato che è un fotomontaggio. Anche la Giulietta. Comunque guarda, devo dire che in quell'occasione ci eravamo veramente ammazzati dal ridere. Veramente. Cioè, nel senso, ci siamo veramente divertiti tanto. Tantissimo. Si era creata una bellissima atmosfera tra di noi e quindi... Sono molto contenta quando poi fai incontri di questo tipo. Ma non poi hai recuperato il sonno? Le ore piccole che abbiamo fatto? Io non l'ho ancora recuperato. Nemmeno io. Sto peggiorando. Le occhiaie più del solito. Vabbè, comunque. Vabbè, ma se vuoi ti consiglio qualche truccatore, prodotto. Ma chiediamo a Giletti. Esatto. Vabbè. Salutami anche Giovanni, che sì, anche lui ti saluta, ti fa tanti complimenti. Un abbraccio anche lui, che è molto simpatico, e abbiamo avuto modo poi di fare la strada del ritorno e ascoltare tra l'altro anche i CD di Roberto Giordi. Prossimamente sarà qui anche lui. Lo ascolterò molto volentieri perché merita davvero. Molto sì, bravo. Molto bravo. Mi dia quando viene, non lo stiamo aspettando. Va bene. Paola, noi ti ringraziamo, grazie della disponibilità. Grazie a voi, grazie. Buona continuazione, continuo ad ascoltarvi. Abbiamo ancora 20 minuti abbondanti, insomma, poi ci sarà Alberto Prisca con la sua classifica della musica rock, che è arrivato in questo momento, così ti viene grazie. Infatti salutiamo anche Alberto. Grande, veramente grande anche Alberto. E Paola, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie, grazie mille Crepi, un abbraccio. Ciao, ciao Paola, ciao, un Paola. Bacione. Ciao Paola. A presto. Ciao a tutti. Noi ci sentiamo, ciao Paola, ci sentiamo presto. Io ciao, ciao Paola. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Contento? Sì, ma che belle sorprese ragazzi, cioè veramente, altro voluto, che carambate qua. Ho voluto farlo proprio perché... No, mi sta facendo tanto piacere, veramente, adesso, non me l'aspettavo. Adesso però gli fai tu un piacere sia alla Giulia che anche alla Paola, gli canti la prossima canzone, cosa gli dedichi? Ma paradossalmente in scaletta c'è il brano che si intitola Io senza lei, ironie della sorte, e questo brano è sul disco è il brano che... spezza un po' il fil rouge di tutta la tracklist, no? È il brano più pop rock, più elettrico, più elettrico. Ecco, io ultimamente ho ascoltato qualcosa degli After Hours, i Baustelle, che adoro, mi piacciono tantissimo perché accomunano anche la Cruz, mi piacciono molto. Che non ci sono più purtroppo. No, no, adesso seguiamo Giovanardi, esatto. C'è anche Cesare Malfatti che comunque è il suo progetto. Sì, esattamente. E, ecco, stavo dicendo, questo è il pezzo più rock che ha, come dire, sentito le influenze degli ultimi miei ascolti, quindi Negramaro, qualcosa, After Hours e poi Baustelle. Appunto. E la musica è stata scritta da Domenico Russo, che è un musicista che sta preparando un brano, un album lui in inglese, che dicevo prima, appunto, era il primo chitarrista rock di Dolce Nera. Poi io ho costruito la melodia e il testo. E parla di, come dire, della doppia vita di persone insospettabili, se vogliamo, diciamo, magari padri di famiglia, come dire, dirigenti di aziende, di banche, che tornando verso casa in autostrada fanno un salto di corsia e vanno in un altro mondo parallelo, e quindi lascio intendere magari all'ascoltatore questi mondi paralleli. La canzone si chiama allora? Io senza lei. Del traffico, le situazioni meteo, un altro salto di corsia, poi radio fuori sintonia, come la mia vita fa, trasmette o non trasmette più. Ti troverò ovunque sei, agli angoli dei posti preposti ai palpiti, negli attimi che non si dicono. Io nonostante tutto sono ancora qui, io nonostante tutto sono ancora qui, qui nonostante tutto si colora. Io come tanti fra le tante, commediante, commediante. Si spegne il motore, la macchina diventa la mia isola, con te che non so mai chi sei. Un alibi perfetto, ma l'animo è corrotto da mille congetture, le solite paure che io ho. Voi non lo vedete da fuori, però lui chiude gli occhi e entra in un'altra dimensione quando canta le sue canzoni, che è una cosa incredibile. Ho fatto male a dirlo? No, no, hai fatto bene, hai fatto bene. Hai fatto benissimo. E poi un'altra cosa, una simbiosi tra Stefano e Michele Bellagente, quando lui, Michele danza sulla tastiera, come una piovra, diceva Stefano. C'è proprio una simbiosi totale, soprattutto in questo pezzo finale, che abbiamo sentito qualche secondo fa, nel finale del pezzo. Io ho visto proprio una simbiosi totale. Vuol dire che il pezzo è entrato dentro ai musicisti ed è entrato dentro sicuramente a chi ci sta ascoltando in questo momento. Sì, a proposito di ascoltatori, io ti interrompo sempre. Sì, sì, noi stiamo girando l'Italia questa sera. Adesso andiamo a Campobasso. C'è una ragazza che è una carissima persona per me, si chiama Antonella, li voglio salutare, ti sta ascoltando, ti saluta caramente. Ciao Antonella, ciao. E niente, quindi un questa abbraccio. Sera stiamo girando l'Italia. Stiamo girando l'Italia. Bene, bene. Ma è perché la musica è una cosa giusta. Fa girare l'Italia, c'è poco da fare. La musica non ha confini e deve essere così. Sì. La musica non deve avere confini. Assolutamente. E ti ringrazio perché ti ha già risposto. Ah, ok, perfetto. Bene, allora Stefano, non abbiamo ancora detto dove si può acquistare il tuo disco, allora, il tuo sito, i tuoi contatti, se c'è qualche bella ragazza che vuole lasciare il tuo numero di cellulare, che ne so. Vabbè, apriremo una pagina Facebook a proposito. No, il mio CD si può trovare, vabbè, in digital download, su iTunes, su tutti i maggiori portali, perché è stato distribuito tramite Zimbala, quindi Amazon, iMusic e via dicendo, lo trovate. Fisicamente si può trovare sul sito americandisco.net.com, comunque cercate American Disco, Stefano Ardenghi lo trovate, oppure ahimè è distribuito comunque nel milanese e nella Bergamasca, quindi qui non è ancora arrivato, però potete fare benissimo richiesta. Poi sto implementando il sito, io sono architetto, mi cimento anche con la grafica, anche la grafica del disco è mia, quindi mi piace metterci mano un po' in tutto, no? Metterci le mani in pasta un po' in tutto. E quindi ci sto lavorando, infatti adesso è una pagina completamente nera. E vabbè, un po' alla volta lo fai. Arriveremo anche a quello, in tempi brevi segnaleremo tutto lì. E cioè, poi i tuoi concerti si può trovare, chiaramente. Sì, ma imminente un concerto adesso, il prossimo, con la band, perché c'è sempre, ricordiamoci, questo progetto parallelo che comunque porta dispendi, energie e creatività, perché come dire, è un progetto ben rodato. Il 27 a Palazzolo sull'Oglio all'Odd Pub, mentre il 4 maggio in trio acustico io con Michele Bellagente e Enzo Valentino, chitarrista, saremo al Rosso Borsieri, in via Borsieri, tra l'altro vicino al Blue Note. Tra l'altro, qui non si sa mai, si butta l'amo e dopo vediamo cosa succede. In quella via ci siamo. Sì. 22:16, quante canzoni ci vuoi regalare ancora? Ne hai due? Se ne hai sì, due, ne ho due, te ne ho concedo due. Una subito. Ah, grazie, volentieri. Partiamo subito con la bossa nova che hai definito tu, come dire, mi hai ribadito che nella scheda stampa c'è scritto elettronicamente milanese. Esattamente, esattamente. Sì, nel disco è elettronicamente milanese. Tu l'hai spiegato bene, adesso in pochi secondi lo spieghi qua. Ah, però, con le vocali anche? Sì, perché me l'hai spiegato, io ho capito benissimo. Ok, niente, ero molto attratto dal genere break and boss, che va molto in Monte Carlo Nights, per citare un'altra radio autorevole, per carità, Radio Monte Carlo. E, ecco, negli happy hour Meneghini è un genere che è molto in voga. E è un genere molto in voga, come, come le persone che sono in voga in quel momento, in quanto presenti, presenzialisti. E molto, molto spesso in città come Milano bisogna, come dire, esserci, se non ci sei manchi. E il fatto di giocare su questo tappeto molto lounge, se vogliamo anche un po' radiofonico anche da questo punto di vista, era per sottolineare il contrasto del fatto che io comunque in questo ambiente ci sono, però ogni tanto voglio assentarmi, perché appunto la parola momentaneamente assente, le due parole momentaneamente assente sono inserite in questo testo, quindi la necessità di sottrarsi da questo presenzialismo ad oltranza, no? Certo, certo. Allora? Il brano si intitola Relax. Si adegua ai miei passi retro, nessuno che m'aspetta così apatico, sorseggio prima dai miei pensieri, non sto pensando a te, passeggio tra la gente, possiedo me, mi dici che da un po' che non chiami, ma se siamo lontani ci sentiamo di più, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì oppure no, e un giorno sì sì, sì sì che deve essere così, assente momentaneamente, assente risulterò per un po'. Questa relax è quiete dopo la tua tempesta, o è l'anticamera di un'altra foresta che la mia mente predispone di già. sopravviverò nel frigo l'occorrente al sostentamento, un indispensabile nella stanza, il resto è costanza, l'astinenza che oltranza sostengo ed ostenterò. Un giorno sì, un giorno no, un giorno sì oppure no, un giorno sì sì, sì sì che deve essere così. Assente momentaneamente, assente risulterò per un po', per un po'. Canottiera, già batte da sera, il grande gala ricomincia da qui. Ma inaspettata mi seduce con la sua voce, la sua linea che sinuosa si fa. L'acustica che mi consola, la tocco, lei vola. Una canzone non ancora poi diventerà, se vuole. Sera, il grande gala ricomincia da qui, ma inaspettata mi seduce con la sua voce, la sua linea che sinuosa si fa, l'acustica che mi consola, la tocco, lei vola, una canzone non ancora, poi lo diventerà, domani dentro un caffè. Sì, un giorno no, un giorno sì oppure no, e un giorno sì sì, sì sì che deve essere così. Assente momentaneamente, assente risulterò per un po', oh, per un po', oh, per un po', per un po', per un po', per un po', per un po', oh. Assente momentaneamente, assente per un po'. Facciamo un salto adesso, dopo questa canzone così. Intanto Antonella comunque ti fa i complimenti. Grazie Antonella. Attraversiamo l'oceano, Stefano, ti sta ascoltando da Los Angeles. Si chiama Elodia, Elodia, insomma, mi scuserà la pronuncia. È una cantante che speriamo di avere qui quando tornerà in Italia. Di avere qui in questa emittente, ti sta ascoltando e la vogliamo salutare. Grazie, grazie, contraccambio i saluti, e già me ne avevi parlato di questa cantante che era notevole, quindi ecco, cioè, ti ha già fatto una faccina. Perfetto, ah che bello che vedi tutto lì sul monitor. Siamo in America anche con Blu Radio Veneto, la che vostra bello. Emittente preferita, come dico sempre io, questa sera stai spopolando, Stefano. Poi c'è un'altra persona che Adriano si chiama. Sì? Adriano, ti saluta anche lui, grande Stefano. Ah, grazie, grazie, un carissimo amico, sì sì. Ecco, lo salutiamo. Dobbiamo sottolineare che questo pezzo è stato nei primi 8 finalisti del premio Binti. Sì, e questo sì. È importante, molto importante il premio Binti. Sì, devo dire che mi ha portato sì, notevole soddisfazione perché in giuria c'erano Gianfranco Riverberi, poi c'erano Ospiti Pacifico, adesso mi sta venendo in mente il chitarrista di Fossati, adesso Armando Corsi. Che è il grande Armando Corsi, e ho ricevuto anche i complimenti da lui, che è, come dire, una persona, come dire, nel mondo che conta, e poi certe sonorità a lui sono care, quindi mi ha fatto ancora più piacere. C'è da aggiungere che con questo brano ha vinto il premio, il concorso Cantiamo la Vita a Pavia, certo. Nel 2006, organizzato dal Movimento per la Vita. Infatti lui poi è il nostro almanacco del giorno dopo, perché veramente ha una memoria storica. Io mi dimentico tutto, date, non date, concorsi vinti, non vinti, quindi mi ha fatto piacere che l'hai ricordato, Michele, grazie. Bene, bene. Stefano, siamo arrivati alla fine. Ma veramente? Non sono passati 10 minuti. Sì, sì. È volata. C'è lui che poi viene dopo di noi, c'è Alberto, okay, quindi okay. Dobbiamo lasciare lo spazio. L'anima rock, la sua classifica di musica rock, ovviamente, anche questa sera presente dalle 22.30 alle 24, assolutamente imperdibile per chi ama questo genere di musica, con tutte le sue novità. una trasmissione seguitissima anche la sua, e insomma è un fiore all'occhiello, insomma, di Blu Radio Veneto. Allora Stefano, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Ti aspettiamo per il prossimo disco. So che stai facendo, hai fatto una canzone, sì, che non ce la puoi presentare. No, assolutamente no, anche perché non è ancora in fase di deposito. Altrimenti però ti squalificano. Sì, sì. Poi dire le cose prima porta un po' sfortuna. Sì. Diciamo che te l'ho detto in confidenza che ho l'ambizione, tra virgolette, di portarlo a un concorso importante. Uh-huh. Vedremo quale sarà il concorso. Vedremo, sì, sì, che si svolgerà quest'estate, quindi è meglio non dire nulla, perché ho notato che appena si dice qualcosa non si avvera mai nulla, quindi stiamo un po' scaramantici. Nel mondo della musica fa sempre bene. Certo, certo, assolutamente. Beh, ci ha fatto bene sicuramente anche l'intervista di un'ora e mezza stasera, il tuo musicare assieme a Michele, perché musica è fondamentale, poi dal vivo è ancora meglio. Dal vivo è la cosa più importante per un cantautore, per un musicista, deve suonare dal vivo davanti alla gente. C'è poco da fare. Il disco è una cosa, ma dal vivo è un'altra cosa. Sì, sì, sì. La comunicazione. È la comunicazione, esatto. Dare l'anima. L'impatto diretto. Certo. Sì, infatti poi, per quel che poi coi live noi siamo molto, come dire, legati. È il nostro mondo, e quindi è lì che l'artista comunque viene valutato e comunque che ha il suo habitat naturale, secondo me. Chiaro. Diciamo che col CD informi. Il concerto comunichi. È vero, hai detto una cosa. Il concerto confermi o meno, oserei dire. Sì. Grazie anche a Michele, ovviamente, di aver accompagnato. Grazie a te, Ago. Veramente. E grandissimo. Stefano, allora, in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera musicale. Ti ringrazio. Ti aspettiamo per il prossimo disco, come dicevo prima. Sicuramente, mi hai già strappato una mezza promessa. La devi, insomma, il prossimo disco lo vieni a presentare qua. Sicuramente, come potrei, dopo queste coccole. Allora, ci salutiamo con l'ultima canzone in programma da questo disco, che ricordiamo si chiama Momentaneamente Assente. È vero, si chiama proprio così, Momentaneamente Assente. Stefano Ardenghi ci saluta con... Vorrei riproporre il brano che è stato il singolo Come sì, Te, quindi come versione te. Destrutturata, quindi è una versione un po' inedita. È un brano che mi ha portato fortuna, perché oltre a essere finalista Premio Nonnezza 2006, l'anno scorso è stato nella playlist di Raiso Radio, anche in orari giornalieri, quindi, certo, quindi ha avuto un riscontro molto nazionale. Mm-hmm. Devi salutare qualcuno? Ma saluto tutti quelli che mi hanno seguito su Facebook, anche quelli che non hanno rifiutato l'invito a sto punto. No, a parte, sono stati gentilissimi tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi anche privati, e è stato un caldo abbraccio dall'esterno e dall'interno, quindi col cuore ricambio. Benissimo, allora ciao Stefano, grazie di aver accettato, dicevo, questo invito di partecipare questa sera. Agostino è molto contento di questo. E sono contento io di averti conosciuto e confermato. Con affetto, un abbraccio, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Ago. Grande. Ciao, ci vediamo, ci sentiamo. Ciao, alla prossima. L'ultima canzone? Come Te. Okay. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Vista da qui a due occhi che scompaiono dentro l'oscurità. Vista da me le paure qui si perdono, a volte un'avventura è tregua. Visto da lei passerei per chi poi scappa un po' per non tornare più. Vivo sognando di un altro respiro, avvolto in un denso bistro. Vivo sperando l'abbraccio di chi sicuramente ha meno paranoia e libere. Così sembra tutto fatto a regola di umana infedeltà. Facci facile no ricordarsi di mentire per difendere la propria sfera. Vivo e tentato mi trovo a un bivio, nascosto mi scopro di più. Vivo auspicando il sorriso di chi da traiettorie impercettibili è arrivata qui come te. Come te.